versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, questo venerdì 22 di dicembre ci avviciniamo verso il Natale in diretta alle 16.06 e 34 secondi da Milano. Vi ringrazio per l'ascolto in diretta o in podcast. Oscar Giannino, la trasmissione di oggi per lo più è dedicata all'approfondimento del voto che ieri si è tenuto, come sapete, in Catalogna, voto conseguente all'attivazione da parte del governo spagnolo guidato da Rajoy dell'articolo 155 della Costituzione di fronte alla dichiarazione indipendentista di secessione che era stata assunta dalla Generalitat catalana e a seguito della quale le autorità giudiziarie spagnole hanno fatto scattare anche decine di arresti, tra cui quello perdurante ancora oggi nel giorno del voto e all'indomani del capo di uno dei più importanti partiti indipendentisti, cioè Schiera Repubblicana, che quindi si è visto alle elezioni insieme ad altri funzionari anche amministrativi oltre che politici del fronte indipendentista dal carcere. Sto parlando di Oriol Junqueras, il leader appunto di Schiera de Catalunya, e le elezioni convocate a brevissimo dal governo spagnolo si sono tenute ieri. Il risultato è stato chiaro nella serata stessa di ieri: i partiti indipendentisti hanno riottenuto la maggioranza con 70 seggi, la maggioranza assoluta era 68 dell'assemblea catalana, ne hanno ottenuti 70 sommando i voti delle tre formazioni indipendentiste. Schiera Repubblicana di Catalogna, appunto, che però è risultata seconda dietro il partito dell'ex presidente della Generalitat catalana Puigdemont, che sapete è ancora a Bruxelles, Junts per Catalunya, che ha avuto un risultato molto superiore alle attese, perché due settimane fa era ancora bassissimo nei sondaggi. E invece la terza formazione del fronte indipendentista, CUP, cioè la sinistra radicale, è andata malino, molto molto molto male. Detto questo, però, le tre formazioni hanno riottenuto la maggioranza con 70 seggi rispetto ai 68 che erano necessari. Il fronte unitarista, rispetto, quindi coerente alle posizioni del governo di Madrid guidato da Rajoy, ha visto l'affermazione di Ciudadanos, il partito che in questi ultimi anni è stata la, tra virgolette, la versione pulita del centrodestra rispetto al Partito Popolare, piegato dai numerosi scandali e dalla corruzione, il partito guidato da Albert Rivera, che nasce a metà degli anni 2000 proprio a Barcellona come un'associazione di intellettuali, docenti, professori, giornalisti, per rinnovare il centrodestra rispetto al Partito Popolare, e che ha avuto nella sua leader in questa tornata elettorale catalana, cioè Inés Arrimadas, la grande novità politica, un grandissimo successo, perché il Partito Popolare di Rajoy viene letteralmente umiliato, prende pochissimi voti, meno del 3%, e i Ciudadanos ne prendono 11 volte tanto in proporzione di voti. E detto questo, sommato poi al Partito Socialista catalano, che invece va meglio, per così dire, si riprende rispetto agli ultimi anni, però non riescono ad avere la maggioranza. Allora, questa è semplicemente la cronaca dei risultati. Il problema è tentare di capire adesso che cosa succede. Sapete che all'indomani, nei giorni immediatamente successivi alla dichiarazione unilaterale di secessione, l'economia, i mercati e le imprese hanno reagito durissimamente, cioè di fronte alla prospettiva che davvero la secessione avvenisse, e questo significa uscire automaticamente, per come funziona l'Europa oggi, dall'Unione Europea e dall'euro, perché l'Unione Europea è una unione di stati, e quindi ha ribadito, deludendo Puigdemont a Bruxelles, ha ribadito che tratta con i governi legittimi degli stati e non contempla quindi l'ipotesi che ci siano separazioni di regioni locali che restino nell'Unione Europea. Bisogna ricominciare l'iter da capo. Sapete che a fronte di questo 3.000 grandi imprese e banche hanno su due piedi dichiarato che spostavano la loro sede legale dalla Catalogna, e anche il turismo ha ricevuto un immediato calo verticale. Il turismo è il 12% del PIL catalano, impiega 400.000 persone, e gli arrivi hanno iniziato a scendere del 3-4-5%, quindi il giro d'affari è crollato. Il punto adesso diventa tentare di capire il governo Rajoy di Madrid, che è Rajoy dal 2006 è colui che ha smontato lo statuto della Catalogna, culminando poi nel giudizio della Corte Costituzionale spagnola che lo ha fatto a pezzi con lo statuto. Era un statuto di autonomia, non di secessione e di indipendenza. A fronte di quello, la reazione di fronte ai no poi negli anni di Rajoy a qualunque trattativa per tornare indietro rispetto all'autonomia cancellata, ecco che si è radicato il seme del ritorno alla secessione all'indipendentismo. Io non ho mai mascherato, per chi mi ha ascoltato, il mio giudizio è fortissimamente negativo sul cinismo da parte di Rajoy, che si è dimostrato un politico che anteponeva la propria rilegittimazione, la sua e quella del suo partito, a fronte delle conseguenze che poteva scatenare questo atteggiamento di smontare lo statuto, calpestare l'autonomia e rimanere indifferente di fronte poi alla radicalizzazione che ha portato poi all'attivazione della Corte Costituzionale e agli arresti, che anche essi non mi sono piaciuti, perché il ritorno in Europa a detenuti politici mi sembra un passo indietro verso il passato remoto. Ma adesso che cosa succede? Dalle dichiarazioni dei leader indipendentisti, che cosa possiamo immaginare? Ha parlato anche Rajoy, che si fa lezione di quello che è avvenuto nella crisi verticale che è avvenuta a seguito della secessione e dell'attivazione dell'articolo 155, si torna a ragionare con che prospettiva, oppure scattano altri arresti? Cosa capita se Puigdemont da Bruxelles, oggi visto che la sua formazione politica ha avuto un oggettivo successo nel fronte indipendentista, se torna a Barcellona lo arrestano? Ecco, sono solo alcune delle domande, non riguarda solo i catalani e la Spagna. Questa vicenda, insieme alla Brexit, poiché l'intesa preliminare per passare alla trattativa, quella più rocciosa, sugli accordi commerciali, sui flussi di beni e servizi tra Unione Europea e Gran Bretagna, non poteva cominciare se non c'era un'intesa sull'exit bill, quanto è disposto a spendere il Regno Unito per sobbarcarsi tutti i costi compartecipati fino a che poi non si arriva alla fine del periodo transitorio dell'uscita. E poi la questione dell'Irlanda. Ecco, la questione dell'Irlanda, per gli accordi che hanno appunto consentito di passare l'anno prossimo alla fase poi della trattativa commerciale, la questione dell'Irlanda pone un altro grande problema, che è del tutto simile a quello della Catalogna all'Unione Europea e quindi anche a noi, perché l'intesa preliminare sottoscritta dalla May e da Barnier e da Juncker è quella di consentire alla richiesta che è venuta sia dall'Irlanda del Nord legata al Regno Unito, sia dalla Repubblica d'Irlanda che è membro dell'Unione Europea, ed è quella di non contemplare frontiere tra Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda. Quindi l'Irlanda del Nord resterebbe con il pieno accesso alle quattro libertà fondamentali, cioè la libertà dei flussi di persone, capitali, beni e servizi. Ma questo apre un altro problema, perché da una parte l'Unione Europea dice noi non abbiamo a che fare, non facciamo eccezioni per parti di territori nazionali, però l'intesa sull'Irlanda fa chiaramente intendere che esattamente questa è l'eccezione rispetto all'exit del Regno Unito. La Scozia ha subito chiesto vogliamo la stessa cosa, ma è esattamente il motivo per cui l'Unione Europea ha detto no alla Catalogna. Vedete quanti problemi delicati, perché nel 2018 avranno inevitabilmente delle conseguenze sul disegno di revisione della governance europea, perché la Merkel e Macron hanno detto che tra aprile e giugno definiranno le proposte per modificare l'ESM, il Fondo Salva Stati, il Fondo Monetario. Però questa questione delle regioni, dell'autonomia delle regioni rispetto agli sviluppi europei ci riguarda, e come. Allora, questa premessa per presentarvi gli ospiti. Abbiamo con noi Sergio Nava, che segue per il Sole 24 Ore, anche oggi trovate i suoi scritti, la vicenda spagnola e della Catalogna. Grazie di essere con noi, Sergio. Grazie a voi, ciao Oscar. E Isabel Turull, che abbiamo già sentito quando la vicenda catalana è entrata nell'acme della sua rovente tensione e poi uno scontro tra Madrid e Barcellona. Isabel Turull, che è la presidente dell'Associazione dei Catalani di Roma e che insegna lingua catalana all'Università della Sapienza. Grazie di essere con noi. Grazie a voi, buonasera. Allora Sergio, tu che dici, dalle prime dichiarazioni, che interpretazione puoi dare? Secondo te, che piega prende, alla luce del risultato elettorale, il tentativo di una ragionevolezza, sempre che si possa immaginare che avvenga? Guarda, due premesse ti faccio veloci, Oscar. La prima sono di fatto due considerazioni. La prima è che Rajoy ha fallito completamente la strategia, cioè il voto di ieri è il fallimento totale del commissariamento catalano, al PP al minimo storico. Rajoy ha tentato in qualche modo, ha fatto un calcolo politico, rafforzare il consenso del resto della Spagna travasando i suoi voti a Ciudadanos in Catalunya, in realtà è praticamente sparito dal panorama politico catalano, ha fatto rivincere gli indipendentisti, quindi di fatto la sua strategia, la strategia del 155, è completamente fallita. La seconda, molto interessante, non so quanto in Italia, perché attualmente sono a Barcellona, però non so quanto in Italia se ne sia parlato, ma questo voto è veramente singolare, perché in qualche modo gli indipendentisti, quel 47% di catalani che è completamente indipendentista, come dice il voto, non ha votato alla fine tanto lo schieramento politico, ma ha votato per riavere lo stesso identico governo deposto a fine ottobre. L'affermazione della lista Puigdemont, inaspettata, l'hai detto anche tu poco fa, è di fatto il riflesso della testardaggine catalana di voler riavere lo stesso identico governo che è stato deposto da Mariano Rajoy. Quindi un dato che trascende gli schieramenti politici, l'essere repubblicani, l'essere di destra, l'essere di sinistra, semplicemente il rivolere il proprio governo, perché qui il rispetto della generalità del governo catalano è per molti sacro. E aver subito questa umiliazione di vederselo deporre ha fatto scattare questa voglia di riavere lo stesso presidente. Premesso questo, vado alla tua domanda. Ma queste considerazioni che ci hai appena svolto sulla stampa spagnola, che ha tenuto posizioni, io devo dire anche, sono rimasto colpito dalla durezza anche di molti intellettuali, Vargas Llosa eccetera eccetera, che hanno sposato la linea durissima degli arresti e così via. Oggi sulla stampa spagnola questo che ci hai appena detto è diffuso e condiviso oppure no? Guarda, Oscar, la stampa spagnola vive su due mondi paralleli. Se guardiamo la stampa iberica, il Mundo, il País, la Razón, ABC, c'è un pregiudizio verso l'indipendentismo catalano fortissimo, cioè non c'è assolutamente il tentativo di capire le ragioni degli indipendentisti catalani, c'è una condanna e punto. Se guardiamo la stampa catalana, c'è chiaramente una parte di stampa molto favorevole all'indipendentismo, c'è una parte della stampa come il principale quotidiano, La Guardia, che è invece più neutrale, ma che comunque, insomma, secondo me dà più il polso della situazione. E tra l'altro una cosa molto interessante, se guardiamo la stampa, è che in Spagna è molto sviluppato il settore online, lo segnalo anche, il sito di eldiario.es, sì, che è un sito che è molto molto neutrale, molto bilanciato e che prende in considerazione le ragioni di entrambi. Un'altra sconfitta, proprio della libertà di stampa in qualche modo, perché il modo in cui la stampa spagnola, la TV spagnola ha trattato la questione catalana è stata spaventosa. Sono completamente d'accordo. Mi ha molto colpito, perché voglio dire, per essere la Spagna, noi non stiamo parlando di un paese del blocco di Visegrad dove la politica e i governi oramai hanno la mano pesante sull'informazione, è stato una specie di moto spontaneo, cioè che ha liberato evidentemente uno stato d'animo che è represso per decenni, quando è tornata democratica la Spagna, ma deve essere ancora fortissimo, ecco. Finisco di rispondere alla tua domanda quando chiedevi che via d'uscita. Rajoy di fatto ha aperto per la prima volta in qualche modo al dialogo, lo ha fatto dicendo che non intende riconoscere nessun tipo di unilateralismo, nessun tipo di indipendenza, addirittura ha detto non voglio vedere Puigdemont, voglio vedere Arrimadas perché ha vinto lei, anche se non può chiaramente governare, però oggi le dichiarazioni di Rajoy segnalano un suo indebolimento, tanto che ha dovuto persino smentire di anticipare le elezioni generali spagnole. Lui governa in minoranza, non dimentichiamo, sì. Quindi il suo governo può anche traballare pesantemente dopo questa umiliazione qui subita ieri in Catalunya. Che dice Isabel Turull del voto e della chiave di lettura che abbiamo dato fino a questo momento e soprattutto di quello che dal suo punto di vista ci si può ragionevolmente attendere a questo punto? Beh, io devo dire innanzitutto che sono pienamente d'accordo con quello che avete detto fino adesso e soprattutto mi è piaciuto molto quello che ha detto Sergio Nava del rispetto che hanno i catalani per la Generalitat. Questa è una cosa che bisogna tenerne conto perché la Generalitat era il governo autonomo della Catalogna già prima del franchismo, sì. Cioè non dimentichiamo che il presidente della Generalitat, Lluís Companys, è stato fatto fucilare sì. da Franco finita la guerra, cioè non durante la guerra civile spagnola, ma quando già la guerra era finita, era in teoria in un momento che l'Europa entrava in guerra, ma la Spagna in teoria stava già in pace con la pace imposta da Franco, per cui poi la Generalitat viene da ancora più indietro perché era l'autogoverno già nel Medioevo, insomma è tutta una storia a cui i catalani sono veramente molto legati e questa testardaggine che diceva Sergio, insomma la possiamo non dire forse testardaggine, però sì, sono molto democratici i catalani, bisogna pensare che queste elezioni sono state fatte in una situazione molto complessa, con gente in carcere, con gente che il presidente che stava in esilio e nonostante tutto i catalani hanno detto assolutamente noi andiamo a votare. Il voto è sacro, bisogna pensare che la gente vota nel modo giusto e che poi sono i politici che magari dopo devono prendere delle decisioni, ma il voto è fondamentale in una società democratica. Nava, l'effetto che ha contato tantissimo, cioè quello della decisione delle imprese, delle banche, i flussi del turismo e così via, che cosa chiede in realtà? Stiamo parlando dell'area della Spagna in cui si concentra la parte più internazionalizzata dell'economia, quella con il maggior valore aggiunto, quella con la maggiore intensità di ricerca, knowledge intensive. Cioè, che cosa chiedono le forze delle imprese al governo che bisognerà formare nella Generalità, bisognerà vedere guidato da chi? Beh, diciamo che qui si gioca un po' un paradosso, se vogliamo, nel senso che storicamente la Catalogna è stata governata negli ultimi anni da Jordi Pujol, l'ex leader di Convergencia, poi caduto in disgrazia per una storia di fondi diciamo esportati ad Andorra. Però quel governo catalano storicamente aveva una oltre a diciamo, fare patti con Madrid per guadagnare sempre più autonomia in cambio di un appoggio ai vari governi che si sono succeduti in epoca post-franchista, aveva un ottimo rapporto con le imprese, anche perché di fatto era un governo di centro-centrodestra, comunque una specie di democrazia cristiana, quindi in quel c'era una piena identità di vedute in quel caso. Adesso è un po' più curioso quello che sta succedendo, perché il settore delle imprese sull'indipendentismo è molto molto più freddo, se non addirittura l'abbiamo visto nella campagna elettorale, ha teso in qualche modo, ha offerto anche la mano a Rajoy. Rajoy ha visitato Freixenet per esempio, o comunque ha cenato con gli imprenditori catalani. Qui è curioso perché il blocco ex pujolista, la vecchia Convergencia, poi diventata PDeCAT, poi confluita nella lista Puigdemont, è andata nel fronte indipendentista. Quindi effettivamente io ho l'impressione che le imprese catalane hanno un po' perso il punto di riferimento, che prima era Convergencia, era Jordi Pujol, e quindi stanno giocando una partita un po' più spostata, bilanciata verso ciò che le rende più tranquille, cioè il governo centrale. Però è chiaro che anche loro devono prendere atto di quello che poi è il risultato delle elezioni. Chiaramente non si può nascondere che l'impatto, come dicevi tu, che c'è stato sul cambio di sede sociale, che poi in realtà il cambio di sede sociale è semplicemente un cambio appunto di sede sociale, non sono state portate via delle imprese per ora. Quindi adesso va anche un po' ridotta la portata di questo cambio. Però anche il turismo a Barcellona è caduto. Questo. Quindi, i catalani hanno dimostrato di voler inseguire il sogno di una loro patria, di una loro bandiera, mettendo in conto anche i rischi a cui andranno incontro. E questo è forse il dato di fatto. Le imprese, ribadisco, sono nettamente, nettamente più fredde, su questo non c'è dubbio. Quando sono stato qui per il referendum del 1° ottobre, tra l'altro ci siamo sentiti, sono stato alla Confindustria catalana, al Foment del Treball, e chiaramente lì non è che ci fosse una grandissima simpatia per il moto indipendentista, però chiaramente forse il dato più importante è lo scollamento cioè tra le imprese e la politica. E la politica. Sergio, ti chiedo, poi dopo 30 minuti andiamo in pausa e ripartiamo di qua. La prospettiva di tornare alle parti fondamentali cassate negli anni alle nostre spalle dello Statuto del 2006 e quindi di tornare a rafforzare l'autonomia di risorse proprie e di poteri concessi al governo della Catalogna invece del secessionismo può, secondo te, rappresentare una strada che verrà iniziata a battere oppure si ricomincia dal risultato del referendum? È veramente difficile dirlo. È difficile dirlo perché si è andati molto oltre. Se questa proposta che dici tu fosse stata fatta pochi anni fa, sicuramente si sarebbe arrivati in una soluzione. Per me è la colpa storica di Rajoy, però questa è la mia opinione. Sì, è la colpa. Sì, ma su questo non c'è dubbio, perché è stato Rajoy col governo socialista in carica a distruggere lo statuto catalano, portandolo appunto di fronte alla Corte, l'hai detto anche tu. Quindi la colpa è sua e ne sta pagando paradossalmente le conseguenze adesso. Però se fosse stato fatto pochi anni fa, pochi mesi fa forse poteva essere una via d'uscita, lo può essere ancora, però teniamo presente che da una parte il blocco indipendentista ha dei leader in carcere, sta patendo conseguenze anche a livello personale, ci sono leader che hanno dovuto pagare cauzioni milionarie per accuse che hanno ricevuto da parte della magistratura spagnola, cioè il conflitto da politico è diventato anche personale. Personalissimo, come no? E quindi tornare indietro adesso, dopo aver portato milioni di persone in piazza, promettendo loro l'indipendenza e chiudendo su un accordo di maggiore autonomia anche fiscale, che è quello che poi veramente conta da queste parti, insomma, i catalani sono un popolo molto pratico, pragmatico, sì, può essere una soluzione, ma adesso in questo momento probabilmente no, perché la gente ora sta sognando, cioè la gente, quel 47% vuole l'indipendenza. Poi magari se si calmano un po' gli animi, se si intraprende un serio dialogo, magari le strade possibili sono fondamentalmente due, Oscar, o questa che hai detto tu, o un referendum concordato sul modello scozzese, altrimenti lo scontro va avanti in un loop infinito. Io penso, condivido con te, certo Madrid deve accettarla l'idea di un referendum di quel tipo, so che ci devi lasciare intanto, quindi grazie a Sergio Nava per il lavoro che continuerai a fare, hai fatto sempre, e poi riprendiamo con Elisabetto Lull. Ripartendo da questa stessa domanda, se secondo lei tornare all'autonomia può essere una trattativa ragionevole, io pure però dico con Sergio che mi pare difficile dopo questa forzatura che Madrid ha fatto, i cui risultati sono chiari, cari amici che avete sostenuto in queste settimane la tesi dell'albagia madrilista, portava a questo e adesso cosa dite? Bisogna restarne altri? Ma su, per favore. Torniamo dopo le notizie sulla borsa e la pubblicità. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta alle 16.34 primi e 28 secondi e voto imposto dalla Spagna allora attivando la Costituzione, commissariando e carcerando la Generalità della Catalogna per la secessione a cui si arriva dopo che Rajoy anni fa smonta l'autonomia catalana, ma Rajoy è il grandissimo sconfitto, il suo partito sparisce praticamente dalla Catalogna. Nel centrodestra a questo punto Ciudadanos diventano la vera possibilità di sviluppo a livello nazionale rispetto al Partito Popolare di Rajoy. Gli indipendentisti riprendono la maggioranza, Puigdemont va benissimo, molto meglio di quanto non si credesse, e la domanda è: ma adesso se torna che fanno? Lo arrestano? E il punto con Sergio Nava, qui ci siamo lasciati, è: in questa prospettiva è ragionevole, è possibile tornare a trattare su un ritorno della maggiore autonomia cancellata dalla raccomandazione della Corte Costituzionale, come sarebbe stato ragionevole fare, perché così non avremmo acceso il radicalismo della risposta orgogliosa da parte dei partiti indipendentisti. Sergio Nava ci ha detto è molto improbabile, perché dopo la forzatura il voto avviene e la maggioranza di indipendentisti è espressa proprio perché si dice indietro non si torna, e voi non ci commissariate, cari signori, perché se no votiamo a oltranza gli stessi. Allora, che dice Isabel Turull di questa interpretazione? Io sono d'accordo sul fatto che indietro non si ritorna. Ma bisogna anche tener conto del fatto, appunto, che dicevamo prima, i catalani sono comunque sicuramente gente pacifica, come si è visto, perché se è stata dichiarata, fatta questa dichiarazione unilaterale di indipendenza, non si è arrivato a dire va bene, adesso facciamo scorrere il sangue. Lì non si è arrivato. No, si è vista anche il giorno del referendum considerato illegittimo, che la gente si faceva manganellare, ma non è che si mettesse a reagire ai manganelli. Io quelle immagini le serbo nella testa come una delle cose più sconvolgenti, perché mi hanno fatto tornare in mente veramente come all'inizio noi non capivamo quello che avveniva in Jugoslavia. Però, per dire, certo. Cioè, per me erano inconcepibili, però altri invece poi dopo le hanno legittimate anche in Italia. Io continuo a pensarle follie. Però detto tutto questo, la cosa peggiore di quelle immagini non è stato quelle immagini, ma il fatto che dopo siano state giustificate, non neanche giustificate, cioè ignorate dal Parlamento spagnolo, che il re non abbia avuto una parola di conforto per i feriti, e che fin adesso ancora il governo di Madrid continua a dire che non è vero, che erano forse non ci sono stati, no, secondo loro non ci sono stati feriti, quelli che noi abbiamo tutti visto. Per cui questo sicuramente è successo e sicuramente è molto grave. Ma tornando al discorso dei catalani che vogliono essere assolutamente democratici, se il governo, che adesso speriamo ritornerà nelle legittime mani del presidente Puigdemont, sarà lui, come nostro legittimo rappresentante, a dover capire dove possiamo arrivare. Quello è il ruolo dei politici, non il ruolo delle persone. Per cui noi aspettiamo a vedere questo, e aspettiamo anche a vedere quale sarà la risposta di Rajoy, perché le notizie che abbiamo avuto adesso è che il fronte giudiziario sta andando molto oltre, perché cominciano ad accusare di sedizione e ribellione addirittura i partecipanti alle manifestazioni pacifiche degli ultimi 5 anni per l'11 settembre, che, come voi sapete, è la diciamo festa nazionale della Catalogna, in cui si è tradizionalmente il momento in cui si rivendica di avere più libertà, più competenze per la Generalitat e tutto quanto, e sono state sempre delle manifestazioni assolutamente pacifiche e con molta partecipazione. Se in Europa si arriva al punto di cominciare a considerare manifestazioni autorizzate, pacifiche, come reati suscettibili di essere accusate di reato di sedizione e ribellione, e le cose per l'Europa stanno cominciando ad andare male, secondo me. Molto male, sì. Penso anch'io che la libertà dei diritti di opinione espressa in maniera pacifica non possa in alcuna maniera, da parte di un governo democratico europeo, essere paragonata con discorsi o dichiarazioni politiche, e tantomeno con provvedimenti di autorità giudiziaria, a atti di insurrezione. Cari ascoltatori, se noi accettiamo l'idea che gli ordinamenti democratici possano avere la facoltà di considerare insurrezione la libertà d'opinione pacificamente espressa, noi stiamo accettando una curvatura terrificante dei nostri ordinamenti. Quello che mi ha molto colpito, chiedo a Isabel Turull, è vedere, l'ho detto prima con Sergio, intellettuali di cui ho una incredibilmente elevata opinione fino ad almeno questa vicenda, spagnoli o di lingua spagnola, anche sudamericani, sposare integralmente la linea della repressione giudiziaria di ciò che stava avvenendo in Catalogna. Da questo punto di vista, chiedo a Isabel, che cosa davvero ha portato figure come quelle che citavo prima a sposare con tutta questa durezza la risposta violenta di Rajoy? Io su questo veramente non so cosa rispondere, perché veramente è una posizione che soprattutto è tutta basata sull'andare contro, non è niente di costruttivo, perché la Catalogna esiste, esistono i catalani, esistono 2,5 milioni di persone che pensano che vogliono l'indipendenza, bisogna prenderne atto. I catalani non dicono gli spagnoli sono cattivi, per esempio, invece abbiamo tutta questa posizione. Ecco, aspetti Isabel, sì, perché uno dei punti che sono tornati sempre per giustificare prese di posizione durissime come quelle, ripeto, Vargas Llosa, Sarriés e tanti altri, è stato quello invece di contestare radicalmente il fatto che la Generalità, le istituzioni catalane in questi ultimi anni avevano radicato in Catalogna forme di discriminazione avverse agli spagnoli in Catalogna, discriminazioni culturali, pregiudizi personali e così via. Cioè, questo era uno degli argomenti ricorrenti per dire dobbiamo fermare questo processo, perché, e dobbiamo fermarlo con tutta la durezza della legge, con il disconoscimento della legittimità che la Costituzione consente e così via, perché chi ha guidato il processo in questi anni in Catalogna in realtà sta adottando vere e proprie misure di discriminazione degli spagnoli. Cosa risponde a questo? Ma su questo posso rispondere dall'ambito che mi interessa, che è quello della lingua, se vogliamo. Le leggi che sono state fatte negli ultimi anni sono per proteggere la lingua catalana, ma come funzionano? Allora, per esempio, c'è la situazione di bilinguismo, il che vuol dire che tutti i catalani, non tutti gli spagnoli, tutti i catalani, che sono tutte le persone che vivono in Catalogna, devono per forza poter parlare le due lingue, ma non sono obbligate a usarne una o l'altra. Questo in teoria è molto giusto, nella realtà vuol dire che se qualcuno deve per forza sapere le due lingue, vuol dire che deve sapere per forza lo spagnolo. Ovviamente il catalano non può essere obbligatorio al 100%, perché se arriva una persona da fuori, se in qualunque situazione di dubbio, chi dovrà parlare lo spagnolo è il catalano, dovrà parlare lo spagnolo, e questo è normale. Ma non si può dire che la situazione di bilinguismo sia favorevole al catalano se noi abbiamo questa situazione. Per esempio, se io teoricamente ho diritto, come dice la legge, io ho diritto a usare il catalano sempre, in teoria. Nella pratica non è così, se pensiamo che per esempio, se io devo fare un processo, andare a processo per un qualche problema, e il giudice viene da un altro posto che non è la Catalogna, il giudice non è obbligato a sapere il catalano per forza. Per cui io, se devo fare la difesa del mio caso, lo farò adattandomi alla situazione, userò il castigliano, il che non succede al contrario, per cui non c'è una situazione di discriminazione dello spagnolo, mai. Ecco, io la ringrazio perché ha fatto un esempio concreto che secondo me rende perspicuo, cioè rende comprensibile anche a chi ci ascolta, e che ovviamente non è tenuto a sapere come davvero funziona la faccenda del bilinguismo. Non c'è nessuna chiusura coatta a favore, c'è un regime di parità con la libera scelta per gli individui. Naturalmente il regime per la parità significa, cosa che ha sempre dato molto fastidio alle istituzioni di Madrid, che l'insegnamento del catalano è diventato negli anni un insegnamento fondamentale nella istruzione pubblica in Catalogna, e questo ha dato molto fastidio. Questo, ciò malgrado, questo non mi spiega quello che secondo me è avvenuto in molti intellettuali democratici, incrollabilmente democratici, cioè non è che io posso cambiare idea su quello che ho sentito. Eppure su questa vicenda è come se avessero segnalato che in Catalogna fosse in atto un processo di disgregativo che era una minaccia fondamentale per l'intera democrazia europea. Allora, la mia opinione, e in questo ringrazio quindi anche Isabel Turull, è che quando si hanno giudizi così radicalmente opposti, cioè quando intellettuali di prima fila che non sono fan di Rajoy dicono in la Catalogna è una minaccia, e dall'altra parte dicono ma come, noi votiamo, chiediamo di votare democraticamente, ci arrestate, allora o questo processo trova dei leader politici capaci di cambiare linguaggio, oppure questa è davvero una frattura europea storica, perché stiamo parlando dei principi fondamentali, non stiamo parlando delle articolazioni di governo, di autonomia, più potere su questo, più risorse finanziarie o meno, questo potere sarà concorrente, quest'altro te lo lascio invece in totale competenza tua. Stiamo parlando dei fondamenti di che cos'è la libera espressione. Conta il voto, oppure se il voto arriva a esprimersi in un modo c'è qualcun altro che dall'altro dice no, voi così non potete votare. Questo è la Costituzione? Le Costituzioni rigide sono questo, secondo voi, cari ascoltatori? Mio Dio, io penso che le Costituzioni variano nel tempo perché si devono adattare a organismi vivi, come è un paese, la loro economia, la loro evoluzione. Non può essere la Costituzione l'attribuzione di alcune scelte vietate. Attenzione, voi mi potreste dire, non è vero, caro Giannino, perché anche la nostra Costituzione dice, per esempio, in una norma che è vietata la ricostituzione del partito fascista. Infatti, aspettate, questo significa che costituzioni democratiche nate da un processo storico e che secondo me devono anche evolvere hanno dei limiti. Gli unici limiti che hanno sono rispetto a scelte considerate extraordinem, cioè considerate alla stregua di ciò che ha portato alla nascita delle costituzioni democratiche come reazione a forze storiche e regimi che hanno prodotto disastri conclamati. La domanda è: il governo di Madrid considera i voti reiteratamente espressi dai catalani come fascismo e nazismo? Ecco, datevi una risposta, perché so che molti di voi non siete d'accordo con l'impostazione che tenta di ragionare sull'autonomia e sul perché i catalani sono diventati indipendentisti. Però la domanda di fondo è questa, ed è una domanda che ha a che vedere con i fondamenti della libertà e del perché esistono le leggi fondamentali, cioè le costituzioni. Grazie anche Isabel Turull. Noi torniamo dopo aver capito cosa succede sulle strade con una storia che sembra natalizia ma non è natalizia, perché l'Italia è anche questo. Ci sarà un imprenditore, fondatore e presidente di Spea, Automatic Test Equipment di Volpiano, vicino a Torino, che ci spiega perché sotto Natale ha preso una decisione rispetto ai suoi collaboratori e dipendenti. A tra poco. La versione di Oscar. Eccoci qua e lasciamo sedimentare quello che abbiamo detto sulla vicenda tra Spagna e Catalogna, vedremo cosa succederà, perché siccome si va verso Natale, c'ho malgrado appuntamento domani dalle 10 alle 12 diretta con i Conti da Belva, con me, Carlo Alberto Cannavale Caffè, Mario Seminario, Renato Cifarelli, vi serviremo di barba e capelli perché c'è la legge di bilancio oramai con tante novità discutibili, c'è la commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche con alcune vicende politiche di cui parlare, e poi ci sarà anche una questione, visto che il Natale si avvicina, ma è proprio vero che l'avidità e l'economia, l'avidità economica è contro lo spirito natalizio, quindi domani ci sarà una bella discussione. Però, siccome si avvicina il Natale, c'è una vicenda tra le tante che dimostra che l'Italia è fatta di tantissime, tantissime, tantissime persone di buon senso. Abbiamo con noi Luciano Bonaria, che è un imprenditore, il fondatore e presidente della Spea, un'impresa che sta fuori Torino a Volpiano, e siccome dicembre per i lavoratori e dipendenti e tempo di tredicesima e così via, e beh, questo imprenditore si è posto un problema e a questo punto ha assunto una decisione. Viva viva il buon senso di quello che segue. Allora, che cosa ha pensato Luciano Bonaria della tredicesima ai suoi lavoratori? Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie di essere con noi. Allora, io ho pensato di dire sì a un'idea che ha avuto mio figlio. Non appena qualche settimana fa, come amministratore delegato da anni, ma ha voluto prendersi l'incarico di direttore generale, e lui ha guardato i risultati dell'azienda che sono molto buoni, e gli è venuto a lui l'idea di dire: noi dobbiamo premiare i nostri dipendenti. Giusto. E io ho detto: ma che bella idea, sarebbe, no, di premiarli come? Dandogli una doppia tredicesima. Esatto. A Natale, sì, a Natale, sì, no? Sì. A me non sarebbe mai venuta in mente questa idea, perché poi lo dico dopo, ma è venuto in mente a lui e io ho detto: ma che idea magnifica, sono d'accordo. E quindi l'abbiamo fatto con una sorpresa che non vi dico. Però un atto di, siccome è coerente la giustizia, perché quando un'impresa che è fatta dalla cooperazione di tutti coloro che ci sono dentro raggiunge ottimi risultati, beh, io credo che sia un incentivo a fare ancora meglio, comportarsi così. Questa è la mia opinione personale. E direi che è un'opinione buona, e noi sappiamo che chi lavora bene e ottiene dei risultati eccezionali deve avere il suo premio. Esatto. Noi l'azienda sono 540 dipendenti, quindi per noi è stato, insomma, un posto molto significativo di risultati. Però siamo molto contenti di averlo fatto, perché veramente i nostri dipendenti, no? Perché mio figlio ha preso questa decisione? Perché lui ha detto: ma questi risultati perché li abbiamo? E noi abbiamo questi nostri dipendenti che hanno fatto tutto il loro lavoro, hanno fatto un extra lavoro, perché noi siamo italiani, facciamo i macchinari per le industrie elettroniche e dei sensori, no? In generale, siamo leader al mondo e c'è molta richiesta, il Made in Italy è meglio al mondo dei macchinari, e quindi i nostri dipendenti hanno fatto il loro lavoro più l'extra, più per sopperire alle continue crescenti richieste. Abbiamo assunto 60 giovani che vengono dal Politecnico. Aspetta, ne approfitto per dire che la notizia oggi lì è stata aggiornata, gli ultimi dati sull'export, il miglioramento rispetto al 2016 a questo punto, cioè un mese fa, del 2017, dell'export è più 12,9%. Un applauso, un'ovazione per tutte le imprese italiane che esportano. Okay. Noi 16% più, ecco, di estero. Ecco. Bene, giusto per dire, no? E allora tutto questo lavoro in più chi l'ha fatto? L'hanno fatto i nostri giovanotti, perché quei 60 che noi abbiamo assunto non sono giovani, hanno una laurea, vengono da Politecnico, non sanno lavorare. E allora i nostri giovani hanno fatto il loro lavoro, hanno fatto l'extra lavoro per le richieste in più, hanno fatto ancora un extra lavoro per cercare di far imparare, di trasferire il loro sapere ai giovani che sono venuti. E quindi sono da strapremiare, ecco perché a mio figlio è venuto immediatamente questo. Ma lei ha detto prima, ma io a me non sarebbe venuto, perché non sarebbe venuta a lei l'idea? Ah, ascolti, io mi viene il nervoso sapere, pensare che un imprenditore non possa premiare i suoi dipendenti, perché da quel premio lo Stato deve mangiarsi la metà. Che santa saggezza! Nervoso, quindi, I miei lavorano, e poiché questa tredicesima viene messa in coppa, no, a tutto il resto, metà gliela mangia lo Stato che non ha fatto niente. Ed è una vergogna. Noi abbiamo le leggi sul lavoro che sono di un'Italia e di un mondo che non esiste più. Non esiste più. Io penso che si dovrebbero svegliare tutti quelle mentalità vecchie, pardon, magari in persone in gamba, no? Yes. Ma sono mentalità vecchie che non hanno più posto di esistere. I giovani prendono coraggio se si sentono premiati del loro lavoro, no? Non possono sentirsi sfruttato in contributi, in tasse sul loro premio. Non è giusto. Qua c'è bisogno che lo Stato ci consenta di dare una busta bianca di premio a noi, che tanto ci costa e tanto va il dipendente, senza contributi e senza tasse. Nessuno vuol toccare quel che c'è già, ci mancherebbe, se no. Ma io devo poter dare il premio. Lei si immagini, ho sentito da un'altra giornalista che mi ha intervistato oggi, che lui ha evidenziato al mondo due notizie. Noi, che abbiamo detto questa cosa qua, è un indiano, è un magnate, no? Sì. Che regala automobili, mezzi, gioielli, no? E sono dipendenti. Ma là lo può fare, in India si può fare. Ma qui no. Non stiamo parlando, cari ascoltatori, che subito mi avete fatto notare, c'è la decontribuzione del salario di merito. Qui stiamo parlando non del salario di merito contrattuale della parte del contratto, qui stiamo parlando dei bonus decisi dall'impresa in base ai risultati. La mia opinione è che, come incentivo e anche evoluzione delle relazioni industriali, della forma di compartecipazione, di reciproca coesione sociale tra l'imprenditore e chi a tutti gli effetti lavora, è dipendente, collaboratore nell'impresa, dovrebbe esserci tassazione zero! Questa è la mia opinione. Altro che buon senso, Luciano Bonardi. straordinaria, si vede nei risultati della loro impresa, ma bisognerebbe che qualcuno in alto ragionasse così. Grazie a lui intanto e buon Natale a lei e ai suoi collaboratori dipendenti, e con noi appuntamento domani dalle 10:12 ai Conti della Belva.